Nel 2013 si ferma all'1,2%, pesa anche il netto calo dei consumi delle famiglie. Due città, Palermo e Venezia, in deflazione, che ora è una delle grandi preoccupazioni, spiegheremo perché. Per il debito pubblico intanto un altro record, ma si prevede un calo in dicembre. Legge elettorale al centro del dibattito, dopo le motivazioni della sentenza della Consulta che indica il ritorno al proporzionale, il Movimento 5 Stelle annuncia un referendum online, mentre non si sono ancora spente le polemiche intorno a quello di ieri sul reato di clandestinità. Hollande alla prova della stampa. Oggi l'attesa conferenza con centinaia di giornalisti accreditati. Avrebbe voluto parlare di iniziative economiche, ma la vicenda della sua relazione con un'attrice domina la scena. L'Egitto al voto per la Costituzione, l'incognita è l'affluenza. Scontri si sono verificati all'Università del Cairo e ci sarebbe stata una vittima, Beni Souef, mentre in Tunisia ricorrono i 3 anni dalla caduta di Ben Ali. Il caso dei Marò, situazione sempre difficile, grande incertezza. L'Italia chiede che l'India si decida ai tempi stretti per conoscere i capi di imputazione. Tra poco intervista l'ex ministro Giulio Terzi, che si dimise quando li rimandarono in Italia dopo le elezioni. Alla periferia di Avellino, un'area dove si seppellivano tonnellate di amianto. Da pochi mesi è ordinata la bonifica, ma ci sono almeno 12 vittime, decine le persone ammalate di tumore. Oggi parte un'inchiesta in 3 puntate. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare potete farlo in diretta via sms al 349-238-6666 oppure con l'hashtag su Twitter Effetto Giorno, oppure c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo dai dati economici di questa mattina, in particolare il dato sull'inflazione. Sentiamo. È una brusca frenata quella che fa registrare il costo della vita nel 2013. Il tasso di inflazione medio si ferma infatti ad un più 1,2% rispetto al 3% del 2012. Si tratta del livello più basso dal 2009. Nello scorso anno l'andamento dei prezzi al consumo, spiega l'Istat, riflette principalmente la debolezza dal lato dei costi, in particolare di quelli energetici, e l'intensa e prolungata contrazione della spesa per consumi delle famiglie. In questo contesto, sempre secondo l'Istituto di Statistica, l'aumento ad ottobre dell'IVA ha esercitato sull'inflazione un effetto parziale e modesto. Altro capitolo, quello del debito delle amministrazioni pubbliche. Focus di Banca Italia sugli ultimi 2 mesi del 2013. Record a novembre, più 18,7 miliardi per un valore mai raggiunto di 2.104 miliardi di euro. In controtendenza il mese di dicembre. Sempre secondo la Banca Centrale il debito dovrebbe essersi fortemente ridotto grazie al consistente avanzo e al netto calo delle disponibilità liquide del Tesoro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La recessione è alle spalle, ma non c'è spazio per il compiacimento, dice intanto il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso. Non possiamo dire che siamo fuori dalla crisi, perché la disoccupazione è ancora troppo alta e alle imprese, specialmente le piccole e medie, mancano i mezzi finanziari per investire. Rischio deflazione, dunque, si diceva, lo sentivate nel servizio del nostro Vincenzo Miglietta. Tra l'altro ci sono 2 città che sono in deflazione conclamata, si tratta di Palermo e Venezia, che nel corso dell'ultimo anno del 2013 hanno visto un calo dei prezzi al consumo dello 0,1%. Saluto il professor Giovanni Fiori, ordinario di economia aziendale alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, le chiediamo molto semplicemente di spiegarci perché la deflazione, ossia il calo dei prezzi al consumo, è pericolosa, e in particolare perché è pericolosa per un paese con il debito, con un debito pubblico alto come il nostro. La deflazione è un fenomeno potenzialmente molto più pericoloso rispetto all'inflazione per 2 motivi fondamentali. E cioè, il primo motivo è che siccome con la deflazione i prezzi scendono, allora i consumatori cosa fanno? I consumatori smettono di acquistare, già stanno acquistando poco i consumatori nostri, smettono di acquistare perché evidentemente si aspettano che lo stesso bene che stanno per comprare oggi tra un mese costerà un po' di meno, e quindi questo innesca una spirale che porta a un ulteriore calo dei consumi, a un ulteriore aggravamento della recessione e a un'ulteriore deflazione. In più c'è un altro secondo aspetto fortemente negativo della deflazione. Quando si hanno debiti, l'inflazione in qualche modo aiuta chi ha i debiti, perché chi ha un debito e supponiamo ci sia un'inflazione del 20%, dopo un anno quel debito di fatto avrà perso il 20% del suo valore. Invece con la deflazione accade esattamente il contrario, cioè con la deflazione chi è indebitato vede un aggravamento della propria posizione, perché il debito che oggi vale 100, con la deflazione tra un anno varrà più di 100. Ecco, il nostro è un paese che, come è noto, ha un problema di grave indebitamento pubblico, e quindi è evidente che la deflazione... E quindi che rischio corre il nostro paese, professor Fiori, in caso di... Ma il nostro paese, che già avvede un gravissimo calo della domanda interna, perché il nostro paese in questo momento si regge sulle imprese che stanno esportando, ma le imprese che lavorano sul mercato interno soffrono moltissimo, perché c'è un calo enorme della domanda interna. La deflazione aggraverebbe ulteriormente questo calo della domanda interna e renderebbe ancora più oneroso il ripagamento del debito pubblico. Grazie a Giovanni Fiori, ordinario di economia aziendale alla LUISS, per averci aiutato a capire tutto questo. Noi passiamo a parlare di politica e di legge elettorale. Naturalmente tutto è concentrato sulle motivazioni della sentenza della Consulta che sono arrivate ieri. Da Montecitorio, Elisabetta Fiorito, buongiorno, ciao. Sì, proprio così, Simone. Il giorno dopo le motivazioni della sentenza della Consulta sul Porcellum, i partiti si interrogano ancora una volta su come cambiare la legge elettorale. Lo ricordiamo, un refrain che oramai ci accompagna. Per il Partito Democratico non ci sono più alibi, il Porcellum va in soffitta e il PD continua a chiedere alle altre forze politiche di scegliere tra le tre proposte di Matteo Renzi. Le priorità per i democratici sono bipolarismo, scelta all'elettore, governabilità. Per Gaetano Quagliariello, un nuovo centrodestra, la strada praticabile sarebbe il doppio turno di coalizione. Per Angelino Alfano, no a candidati paracadutati in collegio come il Mattarellum, e no a liste bloccate come il Porcellum. Il Movimento 5 Stelle annuncia che deciderà con un referendum online. La toppa è peggio del buco per l'autore della legge, il leghista Roberto Calderoli. Per Francesco Sisto di Forza Italia bisogna raggiungere un accordo ampio, un modo per dire che il partito di Berlusconi è pronto a collaborare con il PD. Riguardo al Parlamento, la Corte Costituzionale ha precisato la sua legittimità della legge elettorale. Se non si cambia, il Paese sarà riconsegnato ad un sistema elettorale proporzionale senza premio di maggioranza. Tutto questo per cambiare la legge elettorale c'è tempo fino al 27 gennaio, quando in aula qui alla Camera inizierà la discussione, ma ancora nulla di fatto nella Commissione Affari Costituzionali. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Su questi temi è intervenuto il Ministro per le Riforme Gaetano Quagliariello questa mattina, ospite di Mix 24. Dunque sentiamolo e poi sentiamo il punto di Stefano Folli. Con voi Renzi ha parlato della riforma elettorale oppure no? Ne avete parlato? No? Ma mi sembra che Renzi, insomma, questo bisogna dargliene atto, ha parlato pubblicamente. Ha presentato tre proposte, sa come si faceva, rischia tutto, vuole la busta numero 1, la busta numero 2 e la busta numero 3. E lei che busta vuole? E noi abbiamo detto la busta numero 3, non abbiamo detto la busta numero 4. Cioè abbiamo detto delle tre proposte, quella che impropriamente viene chiamata del sindaco d'Italia, spieghiamo. Al primo turno, se una coalizione prende più del 35%, ha un premio del 15%, quindi un premio consentito dalla Corte Costituzionale. Mi sembra che la Corte Costituzionale abbia lasciato ampio margine ai partiti, no? Per fare piccoli paletti. Sì, ha detto soprattutto una cosa: il premio non può essere irrazionale, esatto, non può essere enorme, e quindi non ce ne possono essere due di premi. Il punto di Stefano Folli. Ora sappiamo in via ufficiale ciò che sapevamo anche l'altro ieri. La Corte Costituzionale ha confermato che se si tornasse subito a votare lo faremmo con un sistema proporzionale come ai tempi della Prima Repubblica. È l'effetto dell'abolizione per incostituzionalità del Porcellum. Quindi cambiare la legge in senso maggioritario, ma senza esagerare, dice la Corte, è una scelta tutta politica che riguarda quanti credono nel cosiddetto bipolarismo. Tocca a Renzi, insomma, individuare la strada per modificare il sistema esistente prodotto dalla decisione dei giudici costituzionali, anche attraverso un'intesa con Berlusconi, l'altro bipolarista, ma è tutto da dimostrare che oggi Forza Italia voglia davvero un sistema maggioritario. Nel nuovo Parlamento conterebbe di più con il proporzionale. In altri termini, la strada di Renzi è in salita anche sulla riforma elettorale. Invece per Alfano, i centristi e i vari gruppi minori le notizie sono ottime. Se riescono a puntare i piedi avranno un sistema conforme ai loro interessi politici. Questo è il quadro dall'Italia. Adesso andiamo all'attesissima conferenza stampa del presidente francese Hollande, che sarà questo pomeriggio. Avrebbe voluto parlare di economia, ma a dominare la scena naturalmente sono le vicende personali. 500 giornalisti accreditati per oggi, e tra loro c'è anche il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Mussanè, che saluto. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. È prevedibile che molte domande in realtà si concentreranno sulla sua relazione appena scoperta, no? Sì, quantomeno le prime domande saranno probabilmente su questo, anche se Hollande cercherà, immagino, di giocare d'anticipo nel suo intervento iniziale, cercando in qualche modo le parole, i modi per disinnescare questa bomba. Naturalmente, che cosa avrebbe voluto presentare nella giornata di oggi Hollande, Marco? Beh, l'appuntamento è molto atteso e molto importante, perché Hollande dovrebbe chiarire e riempire di contenuti l'annuncio fatto nel discorso di fine anno, il 31 dicembre, al Paese, in cui ha dato l'impressione di voler accelerare, di voler cambiare il passo nella sua politica riformista con obiettivi, la proposta di un patto di responsabilità alle imprese, meno contributi in cambio di posti di lavoro e una riduzione della spesa pubblica in vista di un calo della pressione fiscale. Ora, la giornata di oggi avrebbe dovuto appunto e dovrebbe e dovrà nella nostra speranza a fornire dei chiarimenti su questi punti, anche se è chiaro che il messaggio sarà in qualche modo confuso, inquinato dalle vicende sulla vita privata del Presidente. Grazie a Marco Mussanè, che poi nel corso della giornata naturalmente ci tornerà ad aggiornare. Noi restiamo all'estero e andiamo in Egitto, dove oggi è stata giornata di referendum sulla nuova Costituzione e subito si sono verificati i temuti disordini. Nonostante le centinaia di migliaia tra soldati e poliziotti addetti alla sicurezza, le segnalazioni di disordini si moltiplicano. Un dimostrante è morto negli scontri con la polizia a Beni Suef, a sud del Cairo, altri scontri ad Alessandria e nell'Alto Egitto. A Giza, la megalopoli del Cairo, un seggio è stato chiuso per i tafferugli con i manifestanti e sarebbero stati arrestati diversi reporter di Al Jazeera. E nella stessa capitale, la giornata era iniziata con l'esplosione di una bomba artigianale davanti al tribunale del quartiere di Imbaba. Dopo il congelamento della Costituzione del 2012, ispirata dai Fratelli Musulmani, che ora in Egitto sono banditi come organizzazione terroristica, oggi si vota un testo emendato da una commissione nominata dal governo, a sua volta costituito da uomini indicati dall'esercito, perché è l'esercito che di fatto controlla il paese dalla deposizione del presidente Morsi l'estate scorsa. La Costituzione del 2012 fu approvata a maggioranza, sì, ma solo il 33% degli egiziani andò ai seggi. Oggi il generale Al-Sisi, capo delle forze armate, ma anche vice premier e ministro della difesa, si augura maggior riscontro. Ma la giornata è iniziata in salita. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'analisi dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. La democrazia nei paesi arabi ha vita difficile, e questa è la considerazione a 3 anni dalle rivolte contro i Rais, nel giorno in cui oggi si vota per il referendum costituzionale in Egitto e in Tunisia ricorre l'anniversario della caduta di Ben Ali. Il voto al Cairo è in realtà un altro tassello per spianare la strada al generale Al-Sisi, che non nasconde l'ambizione di diventare presidente dopo aver abbattuto nel sangue il governo regolarmente eletto dai Fratelli Musulmani. La Tunisia, dove si sta per votare la nuova Costituzione, ha imboccato forse la strada meno lontana da quella democratica, soprattutto perché gli islamici di Ennahda hanno fatto un passo indietro. Quanto alla Libia del dopo Gheddafi, travolta da omicidi politici e scontri tribali, è un miracolo se non precipita del tutto nel caos, mentre la guerra civile in Siria è l'emblema di un conflitto incontrollabile e senza sbocco. Il bilancio 3 anni dopo è questo: l'Islam politico ha fallito, non si governa con la religione, l'economia deve ancora riprendersi e i paesi delle primavere arabe, sconvolti dai problemi interni, contano sempre meno. Ma anche noi paghiamo un prezzo con l'instabilità crescente nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Dalla sponda sud non vengono quasi mai buone notizie. Vi abbiamo raccontato ampiamente ieri dell'Italia che festeggia il successo ai Golden Globe della grande bellezza. Il suo protagonista, Tony Sorvillo, però è incappato ieri in un piccolo incidente. Durante un'intervista telefonica a Rai News 24, la giornalista ha fatto riferimento alle critiche mosse al film ed ecco che cosa è successo. Chiusura, Servillo, non parliamo allora dei punti che hanno sollevato un po' più le critiche, ma i punti invece vincenti di questa pellicola. Mi sembra francamente inopportuno parlare di critiche adesso, a meno che lei non abbia voglia come me di condividere un entusiasmo per un risultato del genere. Io credo che la maggior parte degli italiani vogliono condividere un entusiasmo, non hanno voglia di parlare di critiche. Possiamo dire secondo lei che cosa è stato apprezzato soprattutto di questo? Cosa? Non sento più, guardi, sto entrando in pronto, sto entrando in un tunnel, pronto? Noi lo sentiamo, ci sente? No. Grazie, ci sente? Sì, trattare così. Va bene, la ringraziamo, grazie a Tony Servillo, non riusciamo più a sentirla. Intanto dopodomani alle 14.30 il primo verdetto, l'annuncio delle nomination agli Oscar, ultimo ostacolo verso la notte dei premi il 2 marzo, precedente al quale guardare quello del 90, quando Giuseppe Tornatore, sperabilmente il precedente a cui guardare, quando Giuseppe Tornatore arrivò alle candidature e poi alla vittoria, proprio dopo il Golden Globe. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Notizia che è stata appena battuta dalle agenzie: la Procura Militare di Roma ha aperto un'inchiesta sull'uccisione di alcuni italiani da parte dei nazisti in Francia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel mirino l'eccidio di Oradour-sur-Glane, nel quale furono trucidati 642 civili, tra cui un'emigrante italiana e 7 dei suoi 9 figli. Le altre notizie: l'inflazione nel 2013 si ferma all'1,2%, pesa anche il netto calo dei consumi delle famiglie. Ci sono due città, Palermo e Venezia, in deflazione, che ora è una delle grandi preoccupazioni degli economisti. Per il debito pubblico intanto un altro record, ma si prevede un calo in dicembre. Legge elettorale al centro del dibattito dopo le motivazioni della sentenza della Consulta che indica il ritorno al proporzionale. Il Movimento 5 Stelle annuncia un referendum online, mentre non si sono ancora spente le polemiche intorno a quello di ieri sul reato di clandestinità. Hollande è alla prova della stampa. Oggi la conferenza stampa, centinaia di giornalisti accreditati, vuole parlare naturalmente di iniziative economiche, ma la vicenda della sua relazione clandestina con un'attrice domina la scena, o meglio, non più clandestina questa relazione. E veniamo alla vicenda dei due Marò. L'Italia sta facendo nuove pressioni sull'India, ha chiesto che al più presto il tribunale che se ne occupa faccia chiarezza e dia chiarezza anche sui capi di imputazione. Come avete sentito nelle scorse ore e negli scorsi giorni, a questo punto si è tornato a non escludere la pena di morte per i due fucilieri italiani, per i due soldati italiani. Saluto Giulio Terzi di Sant'Agata, ex ministro degli esteri, ex ambasciatore a New York e altre cose. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno, cordiale saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Ma prima di parlare della vicenda di Marò, cosa fa lei adesso? Adesso sto parlando con i suoi ascoltatori e spero di farlo molto spesso. Come mestiere intendo, ha capito benissimo. Come mestiere, quando ho lasciato l'incarico, ho detto subito in diverse occasioni che avrei voluto continuare ad essere una voce attiva ed ascoltata su tutte le principali questioni internazionali, e sto facendo il mio meglio per continuare ad esserlo in diversi contesti, università, lavori, approfondimenti, missioni, anche su alcuni casi che ritengo particolarmente qualificanti anche per quella che è stata la mia breve attività di ministro, cioè molto incentrato sui diritti umani, i diritti della persona, la libertà religiosa e la gestione delle crisi come questa. Come questa crisi dei Marò. Allora, lo ricordiamo, Giulio Terzi si dimise in polemica con il governo, allora guidato da Mario Monti, quando si decise che dopo le elezioni i due Marò, dopo l'assicurazione da parte del governo indiano che non sarebbe, delle autorità indiane, che non sarebbe stata applicata la pena di morte nel loro caso, i due Marò furono rimandati in India. Allora Terzi, voglio capire innanzitutto questo: esiste un documento di quell'epoca nel quale le autorità indiane assicurano che non sarebbe stata applicata la pena di morte? Esiste una nota verbale dell'incarico d'affari indiano molto laconica, nella quale si dice cripticamente che la pena di morte viene applicata soltanto in rarissimi dei più rari casi, facendo con questo intuire che non era immaginabile l'applicazione della pena di morte nei confronti dei nostri due fucilieri di marina. Intendiamoci, l'idea soltanto che due militari italiani impegnati in operazioni di pace antipirateria possano in qualche modo essere oggetto di una sentenza di questo tipo è orripilante, indigna tutta la comunità internazionale, non soltanto le coscienze italiane, quindi è una cosa che onestamente mi sentirei di escludere. Ma la cosa ugualmente grave... Quindi secondo lei, mi scusi Terzi, quindi secondo lei non avverrà, cioè non si corre effettivamente questo rischio? No, però il problema è posto da parte indiana e continua ad essere posto, quindi da un punto di vista giuridico, strettamente giuridico, questo rischio esiste. Perché? Perché gli indiani continuano ad insistere che l'applicazione della legge riguarda la legislazione antiterrorismo, cioè quella legislazione fatta per gli attentati di Mumbai nel 2008 che riguarda gli atti di terrorismo in alto mare. Ora, io ho dato le dimissioni anticipando la mia contrarietà alla decisione di rimandare i due marò in India in forma scritta al Presidente del Consiglio il 21 marzo dell'anno scorso, l'ho fatto indicando la mia contrarietà a questa decisione e indicando anche che in ogni caso doveva essere, secondo me, ma anche secondo l'amministrazione che all'epoca dirigevo, dovevano essere, se il governo veramente teneva procedere in quella direzione, dovevano essere ottenute prima che i due militari ponessero piede sul suolo indiano, ottenute dagli indiani alcune garanzie formali molto ferme. Primo, l'applicazione, la non applicabilità della legislazione antiterrorismo e di conseguenza l'ipotesi sia morta della pena di morte, l'avvio di un arbitrato obbligatorio e il riconoscimento della grave violazione dell'indennità diplomatica commessa col trattenimento del nostro ambasciatore, l'impedimento della possibilità di viaggiare, di muoversi per il nostro ambasciatore. Ecco, queste cose, il fatto che ancora negli ultimi giorni il governo indiano stia dibattendo sulla legislazione applicabile e non sia in grado di smentire le anticipazioni stampa date dal giornale Hindustan, dimostra che queste garanzie il governo Monti e il successivo governo riteneva che esistessero e invece non esistono. Le chiedo non una professione di ottimismo ma una previsione. Secondo lei come si chiuderà questa storia? È urgente ed essenziale che vengano investite tutte le possibili istanze internazionali, a cominciare dall'arbitrato obbligatorio previsto dalla Convenzione sul diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia per quanto riguarda la violazione avvenuta dell'immunità diplomatica del nostro ambasciatore New Delhi, che venga investito il Consiglio di sicurezza e il Consiglio Atlantico, perché il fatto di aver preso in alto mare, attirato con un inganno nelle acque territoriali, un'unità italiana e i nostri militari configura anche una cosa che è di competenza del Consiglio di sicurezza e del Consiglio Atlantico, trattandosi di essendo noi un paese integrato nell'Alleanza Atlantica. Ma vorrei anche prendere questa occasione che la strada dell'arbitrato obbligatorio la stiamo predicando io e tutti i principali internazionalisti italiani e tantissime persone che stanno seguendo questo caso, la stiamo predicando da 10 mesi ed era il pilastro della decisione dell'11 marzo scorso con la quale il governo italiano aveva deciso di trattenere i marò e di avviare l'arbitrato internazionale. Senta ambasciatore, ho un'ultima domanda per lei. Lei nei giorni scorsi in un'intervista ha parlato di pressioni di gruppi commerciali sull'esecutivo, magari non proprio esplicitissime, però per far sì che all'epoca i marò fossero rimandati in India. Può essere un po' più specifico? Sì, lo sono, vorrei solo però spiegare che la strada di una giurisdizione internazionale, per concludere la mia osservazione precedente, non è una dichiarazione di guerra a un paese amico. L'Olanda ieri ha formalizzato la sua controversia con la Russia, dico un paese importante per l'Olanda come la Russia, per quanto riguarda il caso Greenpeace Arctic Sunrise. Sì. E nessuno si è scandalizzato, né all'Aia né a Mosca, per questa decisione. Russia era contraria, ma sulla base della Convenzione del diritto del mare, l'arbitrato obbligatorio viene adesso convocato per dirimere questa vicenda. Certo. Per quanto riguarda le pressioni economiche, io ne ho notizia dai ministri che avevano competenza in questo campo, da un paio di colleghi di governo, che nella discussione per questo tema sul rinvio dei Marò hanno usato pesantemente e insistentemente l'argomento di aziende e categorie che si stavano preoccupando delle conseguenze che ci sarebbero potute essere se i due fucilieri di Marina non sarebbero stati. Quali aziende e quali categorie, Terzi? Non sono in grado di entrare nei dettagli perché non sono passi che di cui sono stato oggetto direttamente. Chi sono i suoi ex colleghi di riferimento? Quindi? Sono i colleghi che avevano competenza economica e naturalmente il Presidente. Quindi chi era? Grilli? Lo sapevano Grilli, Monti e Passera? Beh, guardi l'organigramma del governo. Mi dica sì o no, mi dica sì o no. Non è mio costume fare del finger pointing, questo non l'ho mai fatto, non intendo farlo, però è intuitivo di come siano andate le cose e che sono convinto che tutti gli ascoltatori lo possano. Mi scusi, ultima vera domanda, lo stesso Monti ha usato questa argomentazione con lei? Ci ha detto un attimo fa. È un'argomentazione che è stata utilizzata da chi ha insistito per rimandarli, in modo, devo dire, anche aggressivo nei miei confronti. Grazie a Giulio Terzi Sant'Agata, ex ministro degli esteri e ambasciatore. Buona giornata. Chiedo scusa se l'ho fatto attendere un po'. Saluto Luis Alberto Reiana, senatore del Movimento 5 Stelle. Benvenuto. Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, l'abbiamo chiamata perché abbiamo visto che lei ha contestato con una certa energia la votazione che è avvenuta ieri online tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle, una parte degli iscritti del Movimento 5 Stelle, dalle 10 alle 17 sul reato di immigrazione clandestina. Votazione che ha condotto ad una richiesta di abolizione, diciamo così, da parte degli iscritti. Come mai contesta questa votazione? Aureliana. Ma il contesto nel metodo utilizzato, cioè bisognava dare un preavviso adeguato, bisognava dare più tempo, non ridursi a un lunedì in orario lavorativo dalle 10 alle 17, mandare mail addirittura in ritardo, perché io l'ho ricevuta come tutti gli attivisti, ricevo anch'io le mail quando si chiedono questi interventi, alle 10.49, quindi poco più di 6 ore ho avuto di tempo io per, avendo diciamo un'attività che me lo consente, ho potuto votare, ma mi domando, i nostri iscritti fanno delle attività che non consentono di staccare dalla loro attività lavorativa e quindi non hanno potuto votare, e i numeri lo confermano, 80.000 e più avevano diritto di voto, hanno votato poco più di 24.000, quindi questo, io sono su questo ancora fermamente contrario a queste modalità che non si devono più ripetere, diciamo, oltre a poco adeguata informazione, la domanda era troppo scarna, avrebbe dovuto dare qualche indicazione in più, e quindi insomma su questo poi il risultato, diciamo, almeno da parte mia è soddisfacente, però non si può chiudere con tutto è bene quel che finisce bene questa vicenda. Questo è un primo esempio positivo di coinvolgimento degli attivisti, ma questa positività di coinvolgimento è stata veramente macchiata da questi manchevolezze troppo clamorose e inaccettabili. Tra l'altro il suo capogruppo al Senato Sant'Angelo dice che il Movimento 5 Stelle terrà un referendum su internet per decidere anche quale modello di legge elettorale appoggiare, però immagino lei non voglia che sia con queste modalità, ma anche la piattaforma la convince poco? Ma diciamo quella che attualmente si usa per votare le leggi che sono in proposta, di fatto non consente il voto, ma è una serie, si consente agli iscritti di fare dei commenti Che quindi si sommano a altre decine, centinaia, fortunatamente c'è interesse, però insomma alla fine si fa fatica a fare sintesi su una serie di commenti eterogenei sui disegni di legge, quindi su quello anche c'è da migliorare. Ci sono piattaforme già disponibili, qualcuno nota Liquid Feedback, Airesis, il Parlamento elettronico online, ci sono tante, purtroppo ci si sta incaponendo su una che risulta inadeguata. Ma perché secondo lei? Ma perché siamo, diciamo, una gestione di uno staff che mi sono più volte insistendo su questo concetto, che è uno staff poco trasparente, i cui membri non sono noti e le cui decisioni appunto calano in maniera sorprendente, e per questo, già solo per questo, criticabile. Ma poi, andando nel merito, come dicevo prima, per questo caso del reato di clandestinità, in maniera del tutto inadeguata. Vuole anche, mi sembra di aver capito, un voto sulle alleanze, lei? Ma diciamo, questo l'ho proposto in maniera anche un po' provocatoria, no? Perché quando, se si ricorderà, a settembre mi ero espresso per, diciamo, dare più forza ai nostri voti, cioè, o comunque, diciamo, utilizzarli in maniera più efficace in Parlamento, quindi magari riprendendo temi, discorsi di aperture verso al dialogo verso le altre forze politiche, fui tacciato addirittura, insomma, di essere un traditore, eccetera, e mi si raccontò da parte di tanti attivisti, ma non solo, anche colleghi, che ero sicuramente una minoranza che non corrispondeva al pensiero. Ma su questo reato di clandestinità eravamo anche lì sulla stessa lunghezza d'onda. Nel post credo di ottobre, di afferma Grillo e Casaleggio, c'era scritto chiaramente che era un errore proporre l'abrogazione della clandestinità, ci avrebbe portato a percentuali da prefisso telefonico. E invece la maggioranza, per quanto con le critiche che ho espresso prima, si è espressa a favore della maggioranza degli attivisti e degli iscritti al movimento. Questo, diciamo, fa ripensare un po' tutto. Allora, tutte queste certezze forse non si dovrebbero avere, ma andrebbero tutte verificate. Orellana, un'ultima domanda, le chiedo di essere brevissimo. C'è un ascoltatore via SMS che dice: ma questo signore si è accorto di tutto questo ora, ma viene da Saturno? So che non è esattamente una domanda, però è quello che è un commento di un ascoltatore. Ma diciamo che la democrazia diretta, l'uno vale uno, il coinvolgimento degli attivisti l'abbiamo sempre detto, io ci ho sempre creduto. Chiaramente, di fronte al fatto che non eravamo in Parlamento, era ragionevole che non si fossero attivate queste modalità. Adesso però siamo già da 10 mesi in Parlamento e ancora diciamo, incespichiamo in queste carenze, balbettiamo proposte, anche quella di prima della legge elettorale. Siamo in ritardo, in gravissimo ritardo. È da tempo che il blog promette anche l'aiuto di illustri professori, mi ricordo Giannulli, eccetera, ma di fatto siamo oggi, cos'è, martedì 14 gennaio, e siamo ancora qui che gli altri sono andati molto più avanti nelle proposte, e noi invece siamo al palo nel coinvolgimento degli attivisti, perché poi in effetti soprattutto la Camera e i nostri colleghi hanno presentato un disegno di legge, però a questo punto non si sa più neanche quale valore abbia, appunto perché vorremmo andare verso il coinvolgimento, però insomma purtroppo i tempi della politica non aspettano a noi, ecco. Grazie a Luisa Alberto Orellana, senatore del Movimento 5 Stelle. Buona giornata. Grazie a voi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'inflazione 2013 si ferma all'1,2%, pesa anche il netto calo dei consumi delle famiglie. Per il debito pubblico intanto un altro record, ma si prevede il calo in dicembre. Legge elettorale al centro del dibattito dopo le motivazioni della sentenza della Consulta che indica il ritorno al proporzionale. Il Movimento 5 Stelle annuncia un referendum online. Olanda, la prova della stampa, oggi l'attesa conferenza con centinaia di giornalisti accreditati. L'Egitto al voto per la Costituzione, l'incognita è l'affluenza, scontri, a quanto pare ci sarebbero 3 vittime. Il caso dei Marò, l'Italia chiede che l'India si decida e tempi stretti per conoscere i capi di imputazione. È il momento della borsa. Borse in diretta. Con un po' di ritardo e me ne scuso, Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come vanno le cose oggi? Ma le borse hanno passato una mattinata in negativo, pagano la chiusura in rosso di Wall Street che ieri ha perso l'1% e il tonfo stamattina di Tokyo che ha ceduto il 3%, a pesare l'attesa del mercato per la stagione delle trimestrali americane e per una nuova stretta monetaria da parte della Riserva Federale nel caso in cui la ripresa statunitense mostrasse nuovi segnali di consolidamento. Dopo un'apertura con ribassi attorno all'1%, a metà seduta i listini europei hanno comunque dimezzato le perdite, Parigi cede uno 0,5%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,2%, Milano e FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,44%. Sì, e il FTSE share cede lo 0,21%. Titoli da segnalare, mi sembra in particolare evidenza oggi Mediaset, Isabella, succede qualcosa di particolare? Mediaset guadagna un 4%, questo in attesa di novità sul dossier della Pay TV, dall'annuncio avvenuto poco prima di Natale di uno studio per l'integrazione delle Pay TV in Italia e Spagna, una mossa che potrebbe aprire la strada all'ingresso di un partner industriale o finanziario. Il titolo ha recuperato un 38%, oggi dicevamo fa più 4%. Altri titoli da segnalare oggi? Sono deboli sul listino principale le banche, ma soprattutto il settore del lusso, con Yux che perde il 2,9%, Ferragamo un 2,2% dopo un report degli analisti di Nomura che taglia il target price e giudizi. Sono titoli che avevano comunque corso molto nel 2013 e sono adesso oggetto di realizzi da inizio anno. Per fare un esempio, Ferragamo accumula una perdita del 12%, Tod's, Brunello Cucinelli, Moncler del 10%. Grazie ad Isabella Tasso e Radio Cori, il Sole 24 Ore, euro che quota 1,3669. Buona giornata, Isabella. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Veniamo adesso ad un'inchiesta in tre puntate che poi sarà un reportage nella giornata di sabato, un reportage di Radio 24 firmato dalla nostra Katia Caramelli. Vi parliamo di un quartiere intero ad Avellino che lotta contro l'amianto, tutta la città è potenzialmente a rischio. Da oggi appunto la storia dell'isochimica, storia di operai che di lavoro sono morti e di una parte della popolazione che si sta ammalando. Il 31 ottobre l'ARPAC ha prescritto la bonifica dell'area dove negli anni 80 nel borgo Ferrovia, periferia di Avellino, sorgeva la fabbrica di Elio Graziano, dove si scoibentavano le carrozze delle ferrovie dello Stato. L'area è stata messa sotto sequestro d'urgenza nell'ambito dell'indagine coordinata dal capo della procura di Avellino, Rosario Cantelmo, che vede 24 indagati. Nel cortile sono custoditi 500 cubi di amianto friabile e deteriorato e sottoterra gli operai ne hanno seppellito tonnellate. L'avvocato Brigida Acesta rappresenta gli ex operai e le loro famiglie. I super periti nominati dalla Procura della Repubblica di Avellino hanno riscontrato la presenza di amianto libero. Hanno riscontrato che l'amianto che era stato cementificato in questi cubi ancora presenti all'interno dello stabilimento è in uno stato di degrado tale che ne consente la dispersione nell'aria. Parte dell'amianto veniva anche interrato, ci sono delle testimonianze di alcuni lavoratori già depositati agli atti della procura, dalle quali emerge che parte di questo amianto veniva imbustato in delle banalissime buste della spazzatura e veniva poi interrato. Diciamo che l'ARPAC a distanza di 30 anni quasi dalla chiusura di questo stabilimento si è resa conto che era necessario procedere ad una bonifica dell'area. Preliminarmente occorre chiaramente mettere in sicurezza questo amianto, questo per il benessere della frazione Borgo Ferrovia. Ritorniamo alla politica, prima di chiudere questa parte di effetto giorno, alla vicenda del ministro De Girolamo, gli aggiornamenti. Con il passare delle ore si fa sempre più imbarazzante la posizione di Nunzia De Girolamo. La ministra dell'Agricoltura è coinvolta, ma non indagata, nell'inchiesta sulla ASL di Benevento, su quel direttorio di uomini a lei vicini che sono accusati di aver pilotato nomine e appalti nella sanità della città campana. Questa mattina il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di prendere tempo per vagliare la richiesta di revoca dell'obbligo di dimora presentata dal legale di uno degli indagati, il dirigente amministrativo della ASL, Felice Pisapia.